lo so che mi prende quando te ne vai. E mi sento un po' cretino, sai. Portami con te al May. Portami con te al May. Quando ci sei tu, ti vorrei leccare un po' di più, anche se sorridi e dici no. No, dai, non è il caso. Portami con te al May. Portami con te al May. Portami con te al May. May, May. Portami con te al May. Quest'anno alti livelli, suonano gli Iron May. Portami con te al May. Portami con te. Portami.